Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Indie Radio, lo ricordo, potete ascoltarla solo su Transizione di Fase, la web radio indipendente. Vi ricordo che sul nostro sito, alla voce selezionati, cioè sul sito di calabriaindimedia.org, potrete trovare le nostre vecchie puntate e vi consiglio di ascoltarle se per caso avete saltato qualche appuntamento. Io ricordo ancora una volta che è mutato il nostro orario di trasmissione, anziché venerdì alle 21 potrete ascoltarci sempre su Transizione di Fase ogni venerdì alle ore 20:30. Rimane invece invariato l'orario di sabato, cioè l'orario della nostra replica. In questa puntata potrete ascoltare una serie di notizie che riguardano l'antifascismo, una tematica a noi molto cara che crediamo non essere assolutamente tramontata. Quindi parleremo di che cosa è successo a Napoli, dove era previsto per sabato 26 un corteo nazionale addirittura di Casa Pound. Ebbene, questo corteo, grazie alla grande mobilitazione popolare della intera città, è stato annullato. Invece a Milano continua a essere presente questo pericolo, questo problema, infatti Casa Pound vorrebbe anche qui manifestarsi in una sorta di epifania e quindi tutta la città di Milano sta insorgendo e resiste a questo attacco. Quindi vi leggeremo un comunicato, un appello al quale vi invitiamo ad aderire naturalmente, dove si richiede appunto una serie di questioni e soprattutto si fa presente che Casa Pound non è certamente gradita a Milano e si evocano dunque i fatti proprio di Napoli e via dicendo. Leggeremo ancora una volta alcune notizie che però riguardano sempre questa questione a noi molto cara, come vi dicevo, e parleremo di che cosa accade anche in altre città del nord rispetto soprattutto alla presenza di Casa Pound. Ma parleremo ancora di altre questioni, in particolare una molto importante anch'essa, che è prevista una grande manifestazione, cioè per il 26 novembre, riguardo la questione dell'acqua. Infatti il Popolo dell'Acqua, vincitore dei referendum dello scorso giugno, sarà nuovamente in piazza per reclamare il diritto alla vittoria, ovvero il referendum è stato vinto, si è raggiunto il quorum, ma ancora una volta i comuni stentano ad applicare le norme che sarebbero dovute scattare alla vittoria del referendum. Infatti la riduzione almeno del 7% su tutte le bollette dell'acqua praticamente non viene applicata da nessun comune, eppure il referendum sanciva chiaramente che non si dovevano ottenere dei profitti sulla distribuzione dell'acqua. Ebbene, quel 7% che non è stato eliminato dai comuni rappresenta proprio la soglia del profitto, che in alcuni casi comunque non è del 7% ma arriva al 20, 25, 30%. Quindi il 26 appuntamento nazionale a Roma per difendere la vittoria dei referendum. Parleremo poi di tante altre notizie e continueremo però a soffermarci su quello che accade in Calabria. In particolare vi saranno delle corrispondenze rispetto a quello che è accaduto nella città di Amantea. Infatti nella regione Calabria in realtà in questa settimana è giunta una delegazione di una commissione europea capitanata da Pirillo, un deputato europarlamentare proveniente dalla regione Calabria, che appunto si poneva alla guida di questa delegazione che doveva conoscere le varie problematiche della questione ambientale in Calabria. Quindi sono state visitate Amantea, Crotone e Vibo, oltre che però a visitare diciamo i problemi ambientali della regione sono state anche visitate le presunte eccellenze, il convento di San Francesco ad esempio, o alcune cantine e vitivinicole che certamente offriranno un buon vino. Ad ogni modo la rete difesa del territorio Franco Nisticò continua a far sentire la sua voce, quindi si è recata durante queste giornate di visita della delegazione europea, si è recata a far sentire la propria voce ad Amantea, così come anche a Crotone e in altre zone della Calabria dove appunto è presente questa delegazione. E quindi vi daremo un resoconto abbastanza ampio rispetto a questa questione, così come vi parleremo e vi forniremo un resoconto più o meno ampio di quello che è accaduto anche all'Università della Calabria venerdì, dove è prevista appunto la visita di Scopelliti, ma vi parleremo un po' in generale di quello che sta accadendo nell'Università della Calabria, Università Cosenza, a Rende per la precisione, dove comunque c'è un certo fermento, si parla di occupazione simbolica con alcune tende dell'università, sono state fatte anche altre contestazioni, per esempio il ministro all'assessore regionale all'ambiente che si recava appunto in visita all'Università della Calabria. Quindi vi racconteremo un po' di quello che è il clima che si respira nell'università, che speriamo possa contagiare tanti e tanti studenti ancora magari un po' silenti rispetto a varie questioni. Quindi vi parleremo di queste notizie e di altre ancora, fornendovi anche alcuni resoconti di natura economica desunti da Indymedia Italia in particolare. Infatti vi ricordiamo che tutte le notizie di cui vi diamo conto nel nostro programma sono notizie che potrete leggere su Calabria Indymedia, su Indymedia Italia e sugli altri vari nodi di Indymedia in lingua italiana, che sono, ve lo ricordo, Indymedia Napoli, Indymedia Roma, Indymedia Lombardia, Indymedia Piemonte, Indymedia Emilia Romagna, Indymedia Nord-Est, e poi c'è anche il nodo italiano in lingua italiana di Indymedia Svizzera. Quindi questi sono i nostri canali, diciamo così, privilegiati, ma non unici, che ci forniscono informazione. Un'informazione non desunta dal mainstream, ma un'informazione che cerchiamo di costruire noi dal basso ogni giorno. E quando diciamo noi, intendiamo dire tutte le persone che sentono nel loro cuore, diciamo così, di essere media attivisti. Vi invitiamo dunque dalle frequenze di transizione di fase a far sì che anche voi siate i vostri media attivisti, quindi non aspettiamo più che giunga qualcuno da fuori a farci un resoconto di quelle che sono le varie situazioni che viviamo, ma cerchiamo di sforzarci e di utilizzare i sistemi e gli strumenti della rete. Non limitiamoci a pubblicare soltanto su Facebook un mi piace o una qualsiasi nota, cerchiamo dunque di utilizzare al meglio e con intelligenza i nostri mezzi, non deleghiamo più a nessuno l'informazione e non odiamo dunque i media, ma cerchiamo di essere noi stessi i nostri media. E con questo magnifico slogan di antiche origini vi lascio alle varie notizie e buon ascolto sulle frequenze di transizione di fase, la web radio indipendente. Finalmente una bella notizia, di antifascismo. Infatti la questura di Napoli ha vietato il corteo nazionale previsto da Casa Pound a Napoli per il 26 novembre, e quindi leggiamo dal Newswire di Indymedia Calabria che è questa notizia, che ci ha dato questa notizia. Infatti da 10 giorni la città di Napoli si era mobilitata per impedire la manifestazione dei fascisti del terzo millennio. Comunque, malgrado questa notizia, rimane in piedi il presidio antifascista di piazza Cavour. Comunque non ci saranno a Napoli i Casa Pound di tutta Italia, e questa cosa ci conforta sicuramente. E continuiamo a parlare di antifascismo, soprattutto perché siamo convinti che non sia un tema da abbandonare. Chi lo fa rischia serie, pone in serio rischio la libertà di tutti noi. Infatti vediamo su Indymedia Lombardia una notizia raccapricciante: se dunque a Napoli si è ottenuta la vittoria di non avere il corteo nazionale nella città partenopea, invece leggiamo come in altre città, parliamo di Parma, vi siano invece attacchi violenti da parte di Casa Pound, addirittura ai partigiani, che sono stati definiti come dei bastardi violenti e stupratori. Sicuramente i fascisti invece sono brave persone, ci verrebbe da dire. L'organizzazione, che dunque si definisce dei fascisti del terzo millennio, ha distribuito davanti alle scuole in queste ore, parliamo del 23 novembre scorso, una sorta di giornalino in cui vengono attaccati duramente i partigiani dell'ANPI. In una delle pagine c'è la foto di spalle di un partigiano con il fazzoletto dell'ANPI, accompagnata dalla didascalia "La dignità della morte", affrontata col sorriso sulle labbra da una gioventù che non ha tradito, contro il ghigno di un vecchio bastardo, bombardamenti indiscriminati, raffiche di mitra, stupri e violenze, altro che resistenza. E diciamo noi complimenti a questi stupidi ignoranti. Il gesto viene aspramente criticato da vari partiti, non li nominiamo perché alla fine insomma sono anche loro un po' conniventi forse. Ad ogni modo, insomma, ci sono questi addirittura esponenti del PD, ebbene sì, ogni tanto anche loro si ricordano di essere partito di sinistra, che dicono di far fatica a confrontarsi con Casa Pound e fare fatica, beh. Ma i cittadini di Parma conoscono bene, continua questa nota di questo esponente del PD, i cittadini di Parma conoscono bene il valore della democrazia e sanno che la nostra è nata grazie alla resistenza e anche grazie al contributo di sangue di tanti giovani morti per gli ideali di libertà. E continua la nota, continuare a guardare al passo al passato con logiche negazioniste di rottura, aggiunge questo esponente del PD, non aiuta certo, eccetera eccetera. Ma noi chiaramente, come sapete, come in Diradio e come in Transizione di Fase, non amiamo dare spazio a chi già ce l'ha, e quindi diciamo noi, chi continua ad affermare queste false informazioni, a fare apologia del fascismo, non capiamo per quale motivo non venga applicata una legge su queste persone. E poi si va a parlare di anonimi in rete, poi si va a parlare di persone che non dovrebbero manifestare nelle piazze, e intanto Casa Pound va in giro a distribuire notizie e contenuti che sono chiaramente fuori legge, perché l'Italia, lo ricordiamo, è una repubblica che ha vietato la ricostruzione del partito fascista e soprattutto l'apologia del fascismo. E in questa nota, laddove ci sono persone che si definiscono fascisti del terzo millennio per la stessa affermazione, ebbene queste persone magari dovrebbero fare un'altra fine, e non quella cioè di andare liberamente a distribuire menzogne così grandi in giro. Speriamo di poter registrare lo stesso successo ottenuto a Napoli anche a Milano. Infatti anche questa città viene minacciata dalla presenza dei nuovi fascisti, cioè di Casa Pound. Infatti leggiamo su Indimedia Lombardia il testo di un appello: per chiunque volesse aderire può inviare una mail a milanoamalalibertà@gmail.com. Quindi leggiamo questo testo: non siamo la Milano, noi siamo la Milano che ama la libertà, recita il post, che ripetiamo è stato pubblicato sul Newswire di Indimedia Lombardia. Noi siamo la Milano che non accetta che gruppi neofascisti siano ospitati e sostenuti dalle istituzioni democratiche di una città medaglia d'oro alla resistenza. Noi siamo la Milano che di fronte alla crisi rivendica la distribuzione delle ricchezze e rifiuta la guerra fra poveri e il ritorno a un passato di nazionalismo e fascismo. Nel mondo soffia una crisi economica senza precedenti negli ultimi decenni. L'economia neoliberista ha provocato una concentrazione di ricchezze nelle mani di pochi, e in questo contesto sono nati in tutto il mondo movimenti che evocano la solidarietà sociale e rivendicano la redistribuzione. Si battono per una società più giusta, per i comuni obiettivi del 99% dell'umanità. Altri invece, rigugiti del passato, come sempre utili al potere, approfittano della crisi per fomentare la retorica della guerra tra poveri, la desolidarizzazione tra nord e sud dell'Italia o dell'Europa, tra italiani e migranti o con i lavoratori con meno diritti, siano in Cina o in Polonia. Promuovono risposte di chiusura nazionalista in cui razzismo, xenofobia e paura sono le parole d'ordine. È un rischio che l'Europa ha già in corso e la sua storia non può ripetersi. Tra i più feroci promotori di questo ritorno al passato, di cui non si sente alcun bisogno, vi sono numerosi gruppi neofascisti, idioti utili al potere, che preferiscono denunciare il complotto giudaico-massonico piuttosto che le ingiustizie intrinseche nel neoliberismo, in cui pochi, indipendentemente dalla loro nazionalità, posseggono tutto quello che molti producono. In Italia in particolare c'è chi, nonostante fino a pochi giorni fa fosse seduto al governo, ora cerca di costruirsi l'immagine di nemico dei poteri forti, pur continuando ad esserne una utile pedina. Gli intrecci tra questa destra e la destra di Berlusconi, che ha derubato il paese per 20 anni, sono tali e tanti da non poter essere taciuti. Sono evidenti e dimostrati dall'appoggio che giunte di centrodestra hanno sempre garantito a questi personaggi. In particolare, la provincia di Milano, a guida PDL Lega, si è distinta per il finanziamento di tornei sportivi con la partecipazione di gruppi dichiaratamente neonazisti ed altre iniziative simili, salvo poi presenziare con delle passerelle provocatorie a tutti gli appuntamenti della memoria antifascista della città il 25 aprile o il 12 dicembre. Di pochissimi giorni fa l'episodio della mostra revisionista voluta dall'assessore provinciale alla cultura Maiserna sulla Seconda Guerra Mondiale, la resistenza citato solo come guerra civile conclusasi con un bagno di sangue. L'entrata in guerra definita come una scelta difficile imposta dalle contingenze nazionali e con un pensiero speciale dedicato alla X-Mas. Un clima complice ed accondiscendente che per anni ha caratterizzato il nostro territorio, aprendo spazi di agibilità politica ai peggiori e pericolosi picchiatori neofascisti. Basti pensare che nelle prossime settimane Milano rischia di essere sede del raduno internazionale del gruppo Hammerskin. Ci risulta difficile la pronuncia, non perché non abbiamo dimestichezza con altre lingue, bensì perché proviamo ribrezzo proprio nell'ascoltare dalla nostra voce tali parole. Dunque, ritornando al comunicato che vi ricordo è stato pubblicato su Indimedia Lombardia, non è possibile accettare questa complicità, non è possibile lasciare spazio ai fascisti. E queste espressioni ci riescono meglio, diciamo. Per questo il 3 dicembre la città non potrà essere macchiata con l'iniziativa patrocinata dalla provincia a Palazzo Isimbardi assieme al gruppo neofascista Casa Pound, un gruppo che si è macchiato negli ultimi mesi di aggressioni politiche a Napoli, a Roma e in tante altre città d'Italia, anche in Calabria lo ricordiamo le pericolose e inutili provocazioni, ad esempio quelle di Lamezia, aggressioni che hanno suscitato una mobilitazione diffusa che per esempio a Napoli ha portato al rifiuto da parte della città tutta, dalla società civile al sindaco, di un corteo nazionale che era previsto. Il 3 dicembre a Milano sarà una giornata antifascista. La cultura, la memoria storica, la mobilitazione civile impediranno questo ennesimo affronto, che è anche una pericolosa passerella. Facciamo appello alla Milano democratica che ama la libertà e non è disposta a rinunciarvi. Alla Milano che non si dimentica della medaglia d'oro alla resistenza. Alla Milano che lotta per soluzioni e risposte alla crisi che non abbiano nulla a che vedere con razzismo, xenofobia, paura e neofascismo. E a seguire vi sono tutte le adesioni all'appello contro l'iniziativa di Casa Pound. Chiaramente non avrebbe senso leggerle ora qui su un programma radio, ma noi vi invitiamo a leggere questo comunicato e ad aderire chiaramente in massa, perché appunto non abbiano più a ripetersi fenomeni del genere. Vittoria a Napoli, ci auguriamo vittoria anche a Milano. Fuori i nazifascisti e i neofascisti del terzo millennio dall'Italia. Continuiamo a parlare ancora una volta di acqua, in particolare della manifestazione che si terrà a Roma il 26 novembre prossimo. Infatti compare sul Newswire di Indimedia Italia una notizia che comunque troverete diffusa sulla rete, che appunto richiama a questa manifestazione, una manifestazione per ribadire un concetto molto importante: l'acqua deve essere pubblica. E quindi tornano i referendari dell'acqua pubblica. 163 giorni dopo l'incredibile vittoria, i 27 milioni di italiani il 13 giugno scorso chiesero l'acqua per tutti e senza profitti. Quei movimenti tornano a parlare e annunciano un autunno di mobilitazione di piazza e di obbedienza civile. Sì, obbedienza, si scrive in questo articolo. Via alla campagna per la detrazione in bolletta del 7%. Ci si riferisce al secondo quesito del referendum. Diceva che i gestori degli acquedotti italiani, ora pubblici, ora privati, ora misti, non possono fare utili. Sostenne la tesi il 95,8% dei votanti, bocciando la legge Ronchi sulla privatizzazione di bacini e acquedotti. il 13 giugno si abrogò la norma che prevedeva la remunerazione del capitale investito all'interno delle tariffe del servizio idrico. Il 7% sugli investimenti effettuati appunto al netto degli ammortamenti. In realtà, nella maggioranza dei casi, il profitto del gestore incide sulle bollette con un'aliquota superiore tra il 10 ed il 20%. I comitati per l'acqua pubblica 2 lanciano la campagna di autoriduzione e spiegano come in molti dei 91 ambiti territoriali ottimali i contestati ATO, singoli utenti ed organizzazioni collettive stiano già inviando lettere di diffida ai gestori italiani. Dovete applicare il referendum, c'è scritto. È il passo che precede di fronte a un ulteriore rinvio delle aziende, l'autorizzazione delle bollette. 163 giorni dopo il referendum, nessun gestore ha diminuito del 7% le tariffe. La questione acqua pubblica in questa settimana si è trasferita a livello locale, resta calda e conflittuale. Si sono registrate contestazioni al Consiglio Comunale di Pavia, che si sta esprimendo, e a Ferrara. A Cremona, la conferenza dei comuni della provincia è vicina a decidere l'affidamento del servizio idrico integrato ad una società pubblico-privata. A Salerno, la giunta di centrosinistra, guidata da Vincenzo De Luca, ha ceduto la Salerno Sistemi S.p.A., controllata dal comune, alla Salerno Energia S.p.A., azienda mista di diritto privato. A Roma si è scoperto che l'ACEA, controllata dal comune al 51% con 200.000 euro pubblici, ha finanziato il comitato del no, perdendo. A Belluno il PD appoggia convintamente il ritorno di un controllo pubblico sull'acqua. Dal 13 giugno ecco l'unico concreto percorso di pubblicizzazione. Lo ha intrapreso la Giunta De Magistris a Napoli, trasformando l'Arin S.p.A., società a totale capitale pubblico, in un'azienda speciale denominata Acqua Bene Comune Napoli, ente di diritto pubblico a cui parteciperanno cittadini e lavoratori del servizio idrico integrato. Nichi Vendola, per dire delle difficoltà del processo, non ha abbassato le tariffe dell'acquedotto pugliese controllato dalla sua regione Puglia. In questo caso il Comitato Acqua contesta come per la creazione di beni comuni Torino si utilizzeranno l'azionariato diffuso, cioè i cittadini ricompreranno ciò che gli era stato tolto, e la fondazione e le fondazioni bancarie. Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua annuncia una manifestazione nazionale a Roma per sabato pomeriggio, il 26 appunto, in Piazza per l'Acqua. Il sottotitolo dice «I beni comuni e la democrazia», per il rispetto dell'esito referendario, per un'uscita alternativa dalla crisi. Sarà interessante adesso vedere come il governo Monti, liberista per natura e privatizzatore per necessità, si esprimerà sulla questione acquedotti e sulla loro gestione. Già dal 2007 alla Commissione Ambiente della Camera giace una legge di iniziativa popolare per ripubblicizzare il servizio idrico nazionale. E questa è una panoramica abbastanza generale e diffusa che ha tratto comunque spunto addirittura da un giornale mainstream quale La Repubblica. La realtà dei fatti è che ancora una volta la volontà popolare, tanto sbandierata dalla Carta Costituzionale, è in realtà lettera morta, soprattutto quando si parla di soldi. Ormai c'è questa moda di privatizzare qualsiasi cosa, privatizzare scuola, privatizzare sanità, privatizzare i beni comuni, e quindi non bisogna certamente abbassare la guardia. Un referendum abbiamo visto che ormai non basta più. E ora parliamo un po' di economia, di quello che accade nella nostra nazione, nel nostro Stato italiano, e lo facciamo leggendovi un articolo interessante comparso sempre sul Newswire di Indimedia Italia, che ci parla questa volta della patrimoniale. Infatti in questo articolo ci si rivolge un po' a tutti i lettori e quindi si pone una domanda che dovrebbe essere retorica ma non lo è. Infatti in questo articolo ci si chiede: siete tra coloro che festeggiano l'idea della patrimoniale pensando alla Porsche Cayenne del vicino o allo yacht del dentista? Bene, ricredetevi, perché a pagarla saremo ancora solo noi, e intanto nonno corre in Svizzera. L'idea di una tassa patrimoniale, una tantum sulla proprietà degli italiani, sembra piacere un po' a tutti, sicuramente più della reintroduzione della tanto vituperata ICI sulla prima casa. Sarà il sapore della giustizia, dell'equità, per dirla alla Mario Monti. hai case, barche, soldi in tasca, terreni, azioni, ebbene sei ricco, è giusto che paghi più degli altri e magari come collaterale, facciamo scucire quattrini anche a chi ne ha un bel po', agli evasori che se la godono spesso alle nostre spalle. Ebbene, non è così, questa è solo una classica facciata per creare un clima di diciamo contentezza, ma in realtà chiunque abbia più di tre immobili, la barca, il terreno o altro, se ne guarda molto bene dall'intestarli a se stesso, ovviamente. Esistono migliaia di micro SRL nate appositamente per gestire queste proprietà. Ogni commercialista è abituato ad aprirne di continuo. E non sto parlando di miliardi e grandi imprenditori. Persino il bottegaio sotto casa, se si compra l'Audi A6, la intesta ad una società di comodo o alla sua impresa, in modo da poterne anche scaricare le spese. E questo è un vecchio trucco. Quando si discute di patrimoniale, si chiede regolarmente che la si implementi solo per le persone fisiche, non per quelle giuridiche, quindi le varie aziende di cui sopra, vista la crisi di cui già soffrono le imprese e i consumi. Indovinate allora chi finirà col pagare la patrimoniale? Esatto, noi, che al massimo abbiamo una casa ed un'auto, e non apriamo certo società di comodo. Restano i conti corrente ed i beni mobili, almeno quelli, e invece no. Sto sentendo storie di pensionati statali che corrono a portare il gruzzolo in Svizzera. E non si tratta di milioni di euro. Se siamo al punto che nonno Arturo apre il conto a Lugano per metterci la liquidazione, potete immaginare cosa abbiano già combinato coloro che godono di patrimoni più consistenti. E ripeto, si tratta ancora solo di persone normali, di milioni di cittadini con qualche soldino, perché chi ha la grana vera traffica con scatole cinesi e società offshore, non compare neppure all'orizzonte e non pagherà una lira, con buona pace dell'equità. E questo articolo è firmato Deborah Billy. Non sappiamo sinceramente se si tratti di uno pseudonimo o meno, ad ogni modo ci pare veramente un'analisi molto azzeccata e che ci fa riflettere molto su come sia facile chiacchierare, parlare di equità, giustizia sociale, eccetera, eccetera, e in realtà si lascia cadere ancora una volta sulle spalle dei cittadini, dei lavoratori, delle persone qualunque di noi, il peso di questa crisi, mentre i grandi patrimoni, anche quelli medi, ormai non vengono toccati. Quindi evviva Mario Monti, evviva la sua equità sociale, evviva questo Stato. E non diciamo altri aggettivi, ma è facile immaginare quali siano i più adeguati. Del suo ultimo libro Non è vero a Todi se la prende con chi protegge l'anonimato via web, diventando quindi irriconoscibile. Sostiene il vecchio sindaco della città di Roma, è uguale chi va in piazza con il passamontagna e chi sulla rete sostiene delle idee contro qualcun altro senza dire chi è, e questo bisogna impedirlo. Un'uscita continua questa notizia pubblicata su Italindi Media, che stride con l'evento a cui ha partecipato e con le domande rivolte dai giornalisti dopo la conferenza stampa, riguardanti un nuovo periodo fatto di prosperità politica e sacrificio sotto Monti. Quindi vediamo già che cosa ci attende. Basta con gli anonimi, basta con siti come Indie Media, e tutto deve essere tracciabile, tutto deve essere riconoscibile nel nome non sappiamo di che cosa, se non del controllo sociale. Diamo ora una notizia di servizio, diciamo così. Infatti da alcuni giorni il sito di Anarcopedia non è raggiungibile, questo a causa di alcuni problemi con il server. Questa notizia è stata diffusa attraverso il canale di Indie Media Italia e anche da Indie Radio vogliamo dare questa notizia. Nulla di preoccupante, continuate comunque a seguire questo sito di cultura, diciamo, altra. O anarchica, come meglio vogliamo dire. Ad ogni modo, al più presto ci informano attraverso le pagine di Indie Media Italia, il sito riprenderà a funzionare, addirittura dicono meglio di prima, e noi ce lo auguriamo. Apriamo adesso una ampia pagina calabrese. Parleremo infatti, e vi faremo anche ascoltare un resoconto audio, di quello che è accaduto ad Amantea, una delle città che è stata visitata da una delegazione di una commissione europea per l'ambiente, che appunto è giunta nella regione per valutare, verificare, conoscere una serie di problematiche ambientali. Quindi questa commissione ha visitato la città di Amantea, poi di Crotone e di Vibo, fra varie questioni che sono state toccate, dunque la questione del fiume Oliva, la questione anche di Crotone. Ma questa delegazione, guidata dal calabrese Pirillo, ha ricevuto la visita, diciamo così, della rete difesa del territorio Franco Nistico, che ha fatto sentire ai parlamentari europei quelle che sono le proprie visioni rispetto alla questione ambientale. Parleremo poi di università, in particolare Università della Calabria, dove si registrano una serie di momenti interessanti. C'è stata una contestazione all'assessore regionale all'ambiente, che era giunto nella cittadella universitaria per una serie di seminari sull'ambiente, e parleremo poi anche di quello che è successo con altre visite, in particolare Scopelliti. Ma ricordiamo che in questi giorni l'Università della Calabria è in pieno fermento, vi sono vari tentativi, varie assemblee, tentativi anche di occupare l'università in maniera simbolica con delle tende, e quindi vi daremo un resoconto generale con alcuni interventi speciali anche su questo argomento. Quindi una sezione calabrese per questa puntata di Indie Radio che è abbastanza approfondita. Ascoltiamo adesso alcuni passaggi, alcuni momenti di questo incontro informale tra un esponente della delegazione europea, della Commissione europea per l'ambiente, e gli esponenti ambientalisti calabresi, in particolare, in prima fila soprattutto, Rete Difesa del Territorio, che esprime alcuni passaggi e alcuni momenti importanti relativi all'emergenza ambientale in Calabria. Ci scusiamo già da ora comunque per la cattiva qualità dell'audio, tuttavia pensiamo sia necessario e importante trasmettere comunque queste registrazioni. Sicuramente ho fatto un'inchiesta sui rifiuti tossici soffocati nella fabbrica nazionale di Praia, dove sono morti 140 operai per tumore. 140 operai sono morti per malattie tumorali, e c'è un'inchiesta aperta adesso dal Tribunale di Taola. Io su questa storia ho scritto un libro dove è spiegata tutta la storia. In più, questo è un elenco di tutte le navi che sono scomparse nel Mediterraneo, e vi abbiamo sottolineato numero, quelle in Calabria, quelle scomparse in Calabria. Qui nel fiume dell'Oliva ci sono le evidenze scientifiche che c'è un aumento di tumori di vari organi, e apparati, e questo aumento, questi guai sono stati riscontrati a livello scientifico da ricerche epidemiologiche e da studi commissionati dalla Procura della Repubblica. Così come sono stati evidenziati uno smaltimento illegale di rifiuti industriali che non vengono prodotti in Calabria, per cui che vengono da altre regioni e sono stati illegalmente importati qui in Calabria. Noi siamo molto preoccupati perché questo tipo di inquinamento entra nelle catene alimentari e non solo determina, già determinate tanti morti in zona, ma comprende un'area assolutamente vasta e imprevedibile, proprio collegata con l'inquinamento delle catene alimentari. Io personalmente, insieme ad altri, ci occupiamo anche di altre emergenze ambientali, per esempio, e magari la contatteremo in futuro, un problema di, diciamo, di una centrale elettrica in un parco nazionale dove non dovrebbe, ma comunque, come dico, dicendo che la mia organizzazione, che si chiama ISTE, Medici per l'International Doctor, International Society of Doctors for Environment, che è un'organizzazione internazionale, fa parte di un gruppo di associazioni, l'osservatorio di cui prima le parlavo, che si occupa esplicitamente dell'inquinamento marino determinato dall'affondamento di navi contenenti rifiuti. Voglio che lei sappia con chiarezza che io e altri siamo qui a titolo personale, perché all'osservatorio non è stato concesso il tempo di audizione da noi richiesto. Non è stata ascoltata. Non è stata ascoltata, quindi voglio dire, no, cioè, non è stato. Noi abbiamo scritto alla commissione chiedendo un'audizione, chiedendo un'ora. Abbiamo scritto chiedendo tramite il WWF, chiedendo uno spazio di audizione autonoma di un'ora. Alla commissione è qui? Questa sì. Il bisogno di dati. I dati sono stati accertati, i dati sulla mortalità ci sono, d'accordo con quanto ha detto prima Lorenzo. Ora, secondo me, il loro compito è quello, come Commissione europea, di fare in modo che il governo italiano, il governo regionale, facciano di tutto, anche in termini di finanziamenti, soprattutto in termini di stanziamenti, per eliminare il problema, perché non si può aspettare che si verifichino altre morti perché mancano i dati sono incerti. I dati ormai sono acclarati, non c'è bisogno di fare altre ricerche. Ora bisogna agire e eliminare quella fonte di veleni che si trova sotto le palme, sotto il letto del fiume Oliva. Posso dire? Posso dire qualcosa anch'io? I think it's very interesting that you are here again because this morning, because you asked all the questions you are coming up now, yesterday evening to this expert and who told to us. And Mrs. Mackers from and then Mrs. Anna Rothbach, the other MNP, and me, we asked the whole time, there must be sickness, do you have any knowledge about that in the population, what is going on there, why didn't you do anything to get this? Why don't you do anything to get all the weight up and out of the river and to put it in a combustion, in a high temperature combustion, because it has the substances and it's dangerous for the groundwater, for the drinking water, for the population. You never know where the groundwater is connected, and when it's going down in the ground, these hazardous substances. And I think we have to give a report to the ENVI committee of this visit here in Calabria, and I think we should invite you in any case. Maybe the ENVI committee will do something like this, or we are able to do it as a group to have a hearing. We can do it with Mrs. Merkel, with Anna Rothbach and me, to invite the three groups, you as a delegation in the European Parliament, and to publish the results. I think there are a lot of possibilities to go on with these issues, that there's a bigger publicity to this in Europe and to put pressure to the Commission to ask the Italian government what's ongoing there, because there is a European legislation and that law, and they have to mind this in Italy too, to the waste management and the pollution of the environment that's not allowed. E siamo qui all'Università della Calabria, dove da alcuni giorni ormai è partita questa sorta di conferenza sull'educazione ambientale. Studenti universitari, comitati di resistenza per il diritto alla casa, cittadini di Cosenza, cittadini calabresi sono qui a testimoniare come queste conferenze fondamentalmente servano a ben poco. I problemi rimangono per la strada, infatti venendo qui all'Aula Magna dell'Università abbiamo ad esempio visto alcuni focolai di rifiuti tossici, di rifiuti plastici che venivano bruciati, questo per dire come le conferenze rimangono confinate nelle istituzioni, nei palazzi. Fuori però ci sono i cittadini, ci sono gli studenti. Ora sentiamo la voce di uno studente che ci racconterà per quale motivo siamo oggi qui. Noi come studenti e precari cittadini siamo venuti a venire qui, come siamo stati alla conferenza di presentazione di questa conferenza regionale sull'educazione ambientale, sostanzialmente per dire, affermare una cosa, che il Comitato d'Affari, che trasversalmente ha gestito l'ambiente e la cosa pubblica negli ultimi 20 anni, ha sostanzialmente speculato sull'ambiente cercando semplicemente di, con l'unica prospettiva di trarne un profitto. Noi crediamo che chi è responsabile, chi ha la responsabilità politica e giudiziaria, come nel caso del assessore regionale dell'ambiente pugliano, non abbia il diritto di venire a dare lezioni sull'ambiente e di conseguenza questa cosa non possa essere lasciata inosservata. Ci sono tanti temi che uniscono la tematica ambientale e dal diritto allo studio, che si favorisce sempre di più, il diritto alla salute che diventa sempre un problema molto più importante per i calabresi, e sono tutte tematiche che abbiamo unito in questa manifestazione di oggi, per dire sostanzialmente che adesso è il momento di smettere di lasciar passare questo tipo di passerelle di iniziative a testa bassa, è tempo di riprendere in mano il nostro futuro, è tempo di dire mo basta, adesso tutti quanti diritti in discarica. Quindi questo è il messaggio che si vuole dare a Scopelliti, che ha atteso qui oggi all'università. Diritti in discarica e il manifesto di rete difesa del territorio. Un'ultima cosa, un ultimo saluto dunque che possiamo dare al nostro, diciamo così, governatore, quindi qual è? Mo basta, se le altre viste decidiamo noi. Ok, grazie. Università della Calabria, siamo qui insieme al comitato Prendo Casa, alla rete difesa del territorio franconistico, per portare, diciamo così, il nostro saluto a questa conferenza, a questi signori, fra i quali è previsto anche Scopelliti, non sappiamo se verrà, a ogni modo noi siamo qui per dare il nostro saluto. E ora ascoltiamo le parole e il messaggio di un esponente di Prendo Casa, il messaggio che dunque vuole arrivare alle istituzioni, ma che rappresenta la realtà effettuale delle cose e non quello che si dice all'interno dei palazzi. Noi siamo qua per protestare delle richieste che Scopelliti aveva fatto sugli alloggi che sono stati occupati, e che doveva fare l'appartamento al Presidente della Repubblica, l'appartamento al Prefetto e i magazzini per i carabinieri. Però non mettono mai le mani avanti per la povera gente che ha veramente bisogno di un alloggio, dove non hanno né lavoro e né soldi per poter pagare un alloggio. Allora siamo qui per protestare i nostri diritti, diritti che ci vengono negati da anni, anni e anni, sul territorio della Calabria, non solo il diritto all'abitazione, per quanto sono tanti i diritti che ci vengono non riconosciuti, per cui cercheremo di fare una protesta qua, sempre che il signor Scopelliti venga qua all'università, come ha detto, sperando che con noi si aggiungano altre persone a questa lotta, che ci sembra una lotta giusta, che ci va bene per tanta gente che non ho solo io il bisogno della casa oppure altri bisogni, ma è tanta la gente, e ci auguriamo che tanta gente si unisca a noi come comitato. È tutto. Ok, grazie. Quindi lotta per i diritti, diritto alla casa, diritto all'abitare, diritto ad un ambiente sicuro, diritto all'istruzione. Tanti e tanti sono i diritti negati oggi in Calabria, così come nel resto d'Italia, e non a caso, come dicevamo, la giornata di oggi è proprio come leitmotiv il tema del diritto in discarica. Lottiamo tutti insieme dunque per i nostri diritti. Ascoltiamo ora gli interventi dei manifestanti all'interno dell'Aula Magna. Infatti il sit-in a un certo punto ha deciso di spostarsi all'interno dell'aula per parlare non tanto alle istituzioni quanto alle persone, ai ragazzi e agli studenti che erano lì presenti. Ma sentiamo gli interventi. Chiediamo che la vera responsabilità sia sulla chiarezza e sulla responsabilità reale. E appunto per questo, come studenti precari e in generale come cittadini, non possiamo non prendere la parola rispetto ai gravi problemi che attanagliano la Calabria. Di chi è la responsabilità di un territorio diventato una pattumiera internazionale? Siamo sommersi di rifiuti di ogni tipo, troviamo scorie radioattive nei nostri fiumi, nei nostri mari e persino nelle nostre scuole, pensate a Crotone. Queste stesse istituzioni, oggi nella nostra università, promuovono una vetrina per cercare di riabilitare la loro immagine a fronte delle loro pesanti responsabilità politiche e giudiziarie, come l'assessore regionale all'ambiente per il caso Enertec. Ne abbiamo già parlato lunedì ampiamente di questa cosa. Oramai è chiaro che il nostro territorio viene considerato non solo come oggetto di speculazione per gli interessi delle grandi multinazionali, che soprattutto in Calabria si traducono negli interessi mafiosi e nelle clientele dei vari potentati. Questi avvelenatori usano spesso l'arma del ricatto del lavoro, approfittando della precarietà generale della Calabria per propinarci impianti ed inquinamento. Non possiamo stare sulla porta ad aspettare che ci venga tolto il nostro diritto alla salute, mentre il nostro territorio viene devastato dalla speculazione creata attraverso inceneritori e discariche in cui finiscono i rifiuti radioattivi, speciali e non. Appunto per questo, crediamo che sia arrivato il momento che i cittadini iniziano a rivendicare i loro diritti ed auto-organizzarsi per contrastare queste lobby di potere che da anni devastano la Calabria, non solo attraverso una scellerata e dannosa politica sui rifiuti, ma anche attraverso la gestione criminale di un altro settore cruciale, quello delle costruzioni. Le concessioni edilizie non vengono elargite in base al reale impatto ambientale, ma in base a clientele e talvolta anche per riciclare denaro sporco, spesso e volentieri. Così, mentre gli affitti raggiungono prezzi esorbitanti, mentre l'edilizia popolare è fatiscente e degradata e le politiche di sostegno abitative sono assenti, di contro aumenta il numero di cantieri disseminati per la città che devastano l'ecosistema lasciando palazzi vuoti. Ci sono migliaia di appartamenti sfitti. Per molti studenti il diritto all'abitare si lega alle politiche sul diritto allo studio. La Regione Calabria continua a dimenticarsi dagli studenti che hanno bisogno di sostegno per contrastare il loro percorso di formazione, nel caso dei fondi regionali per le borse di studio, nonostante il Ministero abbia già provveduto a stanziare i fondi, lo dicevano ieri quelli di Controverso, no? Per il quale abbiamo solo... i fondi. L'amministrazione regionale ne ha ritardato il trasferimento e gli studenti calabresi non hanno ancora ricevuto ciò che gli spetta di lì. Anzi, rileviamo un pesante rialzo dei prezzi dei trasporti per il quale dobbiamo solo ringraziare la giunta regionale. E intanto loro finanziano Bocconi e Luis che vengono in Calabria a fare i loro masterini del cavolo. Ecco, e tutto questo in perfetta sintonia con le riforme Gelmini. E questo è importante, sostenute, volute prima e poi sostenute dai baronati universitari e appoggiate finanche dal Premier Monti. Come studenti, precari e cittadini vogliamo costruire un'opposizione sociale alla logica di gestione emergenziale che, con il pretesto della crisi, commissaria i nostri diritti e la stessa democrazia, tanto decantata quando fa comodo, quanto accantonata quando disturba, a vantaggio di banchieri, delle istituzioni finanziarie e dei vari comitati d'affari che si spartiscono e privatizzano le risorse naturali, lo stato sociale e mandando i nostri diritti in discarica. A questo attacco complessivo non possiamo che rispondere tutti uniti per un obiettivo concreto per la Calabria e la nostra salute, la fine del commissariamento all'emergenza rifiuti. Crediamo che 15 anni siano bastati a dimostrare che questa classe dirigente non ha la volontà politica di costruire un sistema efficace di raccolta differenziata. Al contrario, vuole arricchire i gruppi di potere politico, mafiosi, che speculano sui rifiuti. E chiudo. Da troppo tempo continuano a restare legalizzate discariche abusive e continuano a proporci veleni e inceneritori. La nostra volontà, invece, è chiara. Siamo per la salute, siamo per la difesa del territorio e dei nostri diritti. Perciò ciascuno dovrà assumersi le proprie responsabilità ed a partire dalle dimissioni del commissario Melandri, che le ha già date, dovranno dimettersi tutti, tutti quanti, e andare loro sì in discarica. Grazie. Siamo solamente altri 5 minuti e poi ce ne andiamo, perché non riusciamo, è veramente gaspiana questa situazione, non riusciamo a capire questo schieramento di forze dell'ordine, per quale motivo, come avete visto, siamo solamente qui per esprimere le nostre opinioni, non riusciamo a capire perché ci sia questo schieramento quando riteniamo che forse sia necessario portare questo schieramento di forze dell'ordine all'interno del Consiglio regionale della Regione Calabria, visto che ci sono inquisiti per mafia che governano questa regione, visto che il commissariamento per l'emergenza rifiuti gestisce la questione delle rifiuti in Calabria con persone collate con la criminalità organizzata, è una vergogna che blocchino gli studenti e che non blocchino questo tipo di speculazione sulle nostre vite. Vogliamo dire ancora una volta al rettore di questa università che questa università non è la sua, è di chi la vede quotidianamente, è di chi viene qui e si prende la parola quando vuole, al di là degli schieramenti che si può mettere davanti. E vogliamo dire che il nostro diritto agli spazi di questa università, pubblici, politici e fisici, non può essere negato, perché è un diritto democratico sacrosanto che ci riprendiamo quando e come vogliamo. Per di più, e chiudiamo, risulta ancora più caspiano questa situazione, si parla di ambiente. Il governo della regione italiana, il governo d'Italia in questo momento è commissariato dalla Banca Centrale Europea, ci hanno imposto un primo ministro che andrà a fare politiche di lacrime e sangue sulla nostra pelle, sulla pelle di migliaia di precari, di migliaia di laureati e di migliaia di studenti. Università della Calabria, siamo qui insieme al comitato Prendo Casa, alla rete difesa del territorio franconistico, per portare, diciamo così, il nostro saluto a questa conferenza, a questi signori, fra i quali è previsto anche Scopelliti, non sappiamo se verrà, a ogni modo noi siamo qui per dare il nostro saluto. E ora ascoltiamo le parole e il messaggio di un esponente di Prendo Casa, il messaggio che dunque vuole arrivare alle istituzioni, ma che rappresenta la realtà effettuale delle cose e non quello che si dice all'interno dei palazzi. Noi siamo qua per protestare delle richieste che Scopelliti aveva fatto sugli alloggi che sono stati occupati, e che doveva fare l'appartamento al Presidente della Repubblica, l'appartamento al Prefetto e i magazzini per i carabinieri, però non mettono mai le mani avanti per la povera gente che ha veramente bisogno di un alloggio dove non hanno né lavoro e né soldi per poter pagare un alloggio. Allora siamo qui per protestare i nostri diritti, diritti che ci vengono negati da anni, anni e anni sul territorio della Calabria, non solo il diritto all'abitazione, per quanto sono tanti i diritti che ci vengono non riconosciuti, e per cui cercheremo di fare una protesta qua, sempre che il signor Scopelliti